gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Yeah, yeah. I Love Italy, Radio Miami International, il rotocalco in lingua italiana con Andy Mangiarotti. Vi ricordiamo che questa trasmissione dura 15 minuti ed è in onda sulla RMI, Radio Miami International. Siamo in onda su kHz 7780, quindi ci potete sentire su questa bella frequenza che copre vaste zone degli Stati Uniti, Europa dell'Est e chissà mai fino dove arriva il mitico segnale di Radio Miami International. Al microfono il vostro Andrea Mangiarotti. Tempo di sole, tempo di spiaggia, di mare, e che cosa capita? Solitamente quando le giornate si fanno più belle, si prende, si va al mare, c'è anche chi va in montagna, intendiamoci, e ci svaga, ci svaghiamo tutti e viviamo questo periodo dell'anno che qua da noi in Italia è estate, da altre parti del mondo sarà autunno, quindi insomma qua da noi è estate, ci svaghiamo e oltre ad andare al mare che cosa capita? Le TV, solitamente le TV nostrane, fanno dei veri e propri tuffi nel passato proponendo dei film molto vecchi, magari non so, in bianco e nero o anche a colori, con grandi attori che possono essere Totò, Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, con le loro meravigliose interpretazioni cinematografiche, Alberto Sordi e così via, Ciccio Franco. Però quest'oggi, qua a I Love Italy, in questa calda estate, quantomeno per quanto riguarda l'Italia, che si protrarrà per un bel po', perché in Italia si può dire, non so, magari se vi capita di andare al mare, certamente fino a novembre potete farvi il bagnettino perché le temperature sono molto molto gradevoli, arrivano anche a 25 gradi. Io mi ricordo una bella giornata trascorsa in Liguria, era il giorno dei defunti ed io facevo un bagnettino a Sestri di Levante. Quindi siete tutti invitati in Italia per pucciare i piedini al mare nelle nostre belle località turistiche. Dopo questo cappello introduttivo, come ho detto in precedenza, solitamente arriva l'estate e le TV trasmettono i grandi classici del cinema italiano. E tra i tanti attori, magari non dico dimenticati, perché la TV lo ricorda spessissimo, sto parlando del grande Renzo Montagnani, lo ricorda soprattutto per le sue pellicole a fianco di Edwige Fenech, di Lino Baffi, Alvaro Vitali e così via, nelle cosiddette commedie sexy all'italiana. Quest'oggi ad I Love Italy vi vorrei leggere un bellissimo articolo che è uscito sul Corriere della Sera, poi ripreso anche da altre testate giornalistiche italiane, tipo Fatto Quotidiano, Libero e così via, dove un certo Walter Veltroni, avete capito bene, Walter Veltroni, fondatore del Partito Democratico Italiano, che da ormai parecchi anni è in esilio politico, passatemi il termine tra virgolette, e si dedica al giornalismo nonché anche alla regia di sue opere cinematografiche. Quest'oggi ad I Love Italy volevo proprio leggere questo articolo molto bello, dedicato a Renzo Montagnani. Vediamo il titolo. Renzo Montagnani e la tragedia nascosta, quei film di serie B per poter pagare le cure al figlio malato. Per molto tempo, scrive Veltroni, Renzo Montagnani, attore italiano di vaglia, è stato iriso dalla critica e dai mainstream di un periodo in cui il cinema o era impegnato o non lo era, o era di sinistra o non lo era. Il suo cinema degli anni 70, fatto di commedie sexy che oggi sembrano l'edizione dinamica del catalogo di Postal Market o delle castissime ingenue parodie delle convenzioni pruriginose dell'Italia bigotta, è stato a lungo additato come il peggio del peggio, come un insulto alla cultura cattolica e quella della critica del capitalismo. Quei film erano invece la prosecuzione del varietà, scrive Veltroni, quello che precedeva e seguiva le proiezioni in tutti i cinema italiano, quello di Polvere di Stelle, quello che ha fatto grande e popolare il teatro italiano per molto tempo. Il varietà di Totò, di Sordi, di Chiari, di D'Apporto, di Macario. Il varietà fatto di meravigliosi giochi di parole, di scambi di persone e di gag e di parodie. Su quei palcoscenici, un grande attore come Nino Banfi e i suoi Franchi ed Ingrassia hanno fatto scuola, sperimentando la rudezza del pubblico, maturando la velocità delle battute. Indimenticabile descrizione del varietà è quella di Fellini in Roma, con il dialogo ininterrotto tra i guitti e un pubblico geniale, non meno spiritoso di chi doveva per contratto far ridere. Poi Veltroni continua a toccare l'argomento, per l'appunto, dei critici cinematografici degli anni 70 che hanno sempre preso in giro e criticato questo grande attore che è stato Renzo Montagnani. In un intervento addolorato in un convegno di attori del 1977, Montagnani dice: «Io mi ritengo l'ultimo in graduatoria, anche se venisse fuori qualcun altro nuovo, io resterei sempre l'ultimo». Un critico un giorno ha scritto di me: attore da bordello. Io ho sofferto tanto perché non mi sento affatto un attore da bordello, mi sento un attore che ha alle spalle 24 anni di professionalità seria. Qua eravamo nel 1977. C'è però una verità nascosta nella vita del grande mottatore Renzo Montagnani. Le sue scelte lavorative, lui faceva quasi tutti i film che gli venivano proposti, anche se erano film di serie B, anche se erano film, come potremmo definirli, che sicuramente non avrebbero ottenuto un ampio consenso di pubblico. Però c'è una verità nascosta, dice per l'appunto Veltroni, che Montagnani accettava tutti questi ruoli perché per varie ragioni, soprattutto per ragioni economiche. Doveva pagare le spese di cura per suo figlio malato, quell'unico figlio che amava e che lo faceva soffrire. Ma il teatro gli avrebbe dato i soldi che non solo non gli garantivano proprio la copertura del teatro, quindi lui si dedicava al cinema 24 ore su 24. Accettava tutti i tipi di copioni, ma non perché fosse felice di accettare i copioni, lo faceva perché aveva questo figlio, per l'appunto Daniele, gravemente malato. Lui ha sofferto per non aver fatto una carriera diversa, scrive per l'appunto Veltroni. Pensava di meritare di più. Diciamoci la verità, gli davano soddisfazione i ruoli più colti, mi dice per l'appunto Edwish Fene, compagni di tante pellicole, donna di grande sensibilità. Era capace di piangere e di commuoversi per i gesti di affetto nei suoi confronti. Voleva molto bene a mio figlio, che allora era molto piccolo. E poi ci sono anche i ricordi di altri amici, nonché grandi personaggi dello spettacolo italiano, tipo Maurizio Costanzo, che con Renzo ha lavorato per un programma televisivo e per una rubrica televisiva. Dice che era un personaggio da Amici miei, aveva insieme quell'allegria inconclamata, quasi goliardica, e quel senso tragico che ci sono nei film. E poi ancora lo ricorda anche Lino Banfi, ha lavorato in diversi film, per l'appunto con Lino Banfi, La moglie in vacanza e L'amante in città. Banfi dice: eravamo a Courmayeur, la sera restammo da soli noi due. Ci divertivamo come matti insieme, a lui piaceva quando io dicevo il mio porca puttana e a me quando lui si avventurava nella parola focaccia, che alla fine era solo una ventata di vocabolo. Una sera mi confidò del figlio e io capii perché ogni tanto affondasse nella bocca la sua tristezza e la sua ansia. Gli pesava che il suo talento non fosse riconosciuto, meritava certo di più della critica, anche per quei film che vengono rivalutati ciclicamente, soprattutto dai giovani. Veramente bello questo articolo di Walter Veltroni, che finalmente dà splendore a questo grande attore. E poi dice ancora, per l'appunto, il giornalista: Renzo Montagnani è stato un grande attore, una grande persona. L'ho conosciuto che era un ragazzo e mi fece una grande impressione. Era una delle prime combinazioni di tristezza e di allegria che mi fosse capitato di incontrare. Non sapevo perché, ma capivo che in quell'uomo c'era qualcosa di misterioso, di nascosto. Rideva e faceva ridere, ma lo faceva come per tirarsi fuori da un gorgo. A quei tempi Renzo presentava un programma televisivo di grande successo, si chiamava Mille Dischi. Suo partner era la più sensuale delle annunciatrici, Mariolina Canuli, che oggi mi dice: non ho mai riso tanto in vita mia. Era spiritoso, intelligente, un compagno di lavoro ideale. Era riservato, molto sensibile. Per me è stato un padre, un fratello, tutto. Bene, cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo anche per questa bella puntata di I Love Italy qua sulla WRMI Radio Miami International. Vi ricordo, il rotocalco in lingua italiana dura 15 minuti su Radio Miami International. Noi parliamo dell'Italia quest'oggi, visto che in Italia è estate e lo sarà per un paio di mesi, speriamo, Dio piacendo, con le temperature e così via. Abbiamo ricordato questo grande attore, Renzo Montagnani, spesso sottovalutato, spesso additato come attore di serie B, ma era un grande attore, sia cinematografico che teatrale. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, ringrazio tutti voi ascoltatori e ascoltatrici della WRMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea Mangiarotti, ciao da Andy e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Alla prossima. A me va bene, col passaporto. A me va bene lo stesso, perché io faccio con lo stesso impegno questi filmetti, che forse sono più difficili da fare che John Proctor nel Crogiolo, perché quando hai un testo di quel genere sotto sai fare qualcosa, hai un minimo di doti, di capacità. Insomma, non è difficile fare Shakespeare o Miller o Goldoni, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, sì, è più difficile fare, è molto più difficile fare ridere. E io ti ripeto, con lo stesso impegno con cui ho fatto il Crogiolo, posso aver fatto Goldoni, io faccio i miei filmetti. Sei un professionista. Li chiamo così, anche perché io non guadagno molto, non prendo le cifre che prendono i cinque famosi, cioè, quelli dell'OPEC, no? Ormai io ne devo far tanti per bilanciarmi. E anche perché purtroppo delle spese pazzesche, familiari, per tante ragioni, perché se in Italia esistessero delle strutture valide, per esempio per curare dei bambini che non sono normali, non avrei bisogno di fare tutti questi film così indiscriminatamente, senza poter scegliere. Comunque, io sono contento così, la mia carriera per fortuna prosegue. Ma comunque è stato bello che tu abbia puntualizzato la ragione tua privata, familiare, che ti obbliga a fare una carriera che non sempre vorresti scegliere così, insomma. Senti, Stefania, adesso ti farei vedere, per, non per chiudere, ma insomma, per avvicinarci alla fine un altro pezzo del balletto Tilt, insomma, dove, che mi pare notevole, sempre con Mancini, Lazzaroff, Coma Chi Follis si chiama.